Ciucci e Tor il Monova. Chi non c'è? Chi è? Sono qua, zona Sassari. Ma si sente abbastanza forte, dicendo. Che zona sei? Ma la rotonda di Bricomar. È direzione 131 vita mia. Ma casa tua stai andando? Gatta. Ma gatta, andrà bene. Io mi trovo piazzando il capo dell'antenna del televisore, adesso ho finito, li tiro tutto piano piano. Venga, e tu da dove muovo lì, Bomboli? Prima verità, lo sai dove? Negativo. Piatto. La feroce, vai. Sta arrivando abbastanza forte qua. No, c'è un piccolo... un aiutino, diciamo. E tu va bene, dai. Gappala, no, c'è un belle radio, diciamo. Che non c'è. No, non ho capito. C'è una frase che non ho capito neanche io. Ho detto a Panaro che c'ho delle belle radio! Hai copiato adesso! E scappa! Già ce l'ho anche io così che non c'è! Esatto! Peccato che qua non arriviamo dalla mezz'ora del mio paese da Putusola. Arrivo in pochi posti da Claudio lì da Falchetto. Però a me e voi l'altra sera un po' a Porto Torres sentivo a Sandro e boh. Perché purtroppo è zona negativa. Esatto, arriva il tavolo da vulcano e noi lontani siamo, e mica ci dobbiamo fare a pezzi, però purtroppo ci dobbiamo accontentare se dove arriviamo. L'importante è andare da uscire forte. Vabbè, però quando ci spendi un po' per i soldini, cazzo, devi arrivare, però ne vogliamo sempre di più, non ci accontentiamo mai. Mettiti un traliccio, mettiti. Quasi quasi, ci stavo pensando. Ma se ti metti il traliccio vedi che già arrivi, ha potuto a Sassari. Oh, l'anno scorso ero a Limara che lavoravo con la Sassa Neve, con questa stazione, cazzo, arrivavo qua, come arrivavate benissimo lì, cazzo, però in alto. Stiamo parlando tutta un'altra zona. Limara, così è. Limara, io a tempo ero lì con la spazzanese e quando avevo un po' di tempo, cazzo di soddisfazione, cazzo, arrivavate lì, cazzo, con tutti a 9.30, cazzo, Limara è in alto, un monte altissimo. In alto sì. Ho veduto, ci sono anche ripetitori lì. Non è che in alto non è ripetitori, no. È che in alto è tutta un'altra funzione. Ma chi è che vuole entrare? Avanti! Ma cuore voleva entrare, ha sovramodulato. Non lo so, questa frusci che è, no, è falchetto. Ci è arrivato. Dio mio! L'entrata di via l'Italia là, prima di quel vialotto. Ancora già ti sento. Non so se mi senti bene tu a me. Ehi, come vuole già ti sento. Perché c'è di traffico stasera qua, eh? è Zeppola 131. Si sa fare giù. Stanno proprio rientrando dalla settimana in bianco. O la settimana in verde. Si giruzzane, boh. Loro se lo sanno cosa stanno facendo. Mi sa che questo Natale, con tutte queste manovre, ti restano senza danari, ti lasciano. Che manovre stai facendo? Ho detto, con tutto questo popolo italiano, con tutte queste manovre, capisci a me, manovre, forse, tutti stanno manovrando, però soldi non ce ne stanno dando più. Guardi che li vegliani, uno per uno. Manovre, ma tu chi va a fatti, disgraziati, che non sono altri, questa volta ci vogliono rovinare sul serio, e nessuno ha detto niente però. Un po' di manovre, manovrette. Poco si rimagna uno dopo l'altro. E poi buca per me, sto entrando in galleria. Non so poi se mi ricoppi, E vai, c'è problema. Senti ancora, Gambio. Senti ancora la stazione del Moro, Gambio. Break. Mi senti, Momolo? Coordinate cimenteria Italia, ragazzi. Ho detto, Momo, se senti stazione del Moro, coordinate. Attento per ricetto, attento per ricetto. Vuole tu si ascolti. Attenzione, per ricetto il Moro si ascolti tutti in un cambio. Maggio Mali, presentito, buonasera. E buonasera già. Era sul nome, stava parlando con Cozzo, con Antonio Bombolo, ed è entrato in buca. Arrivato alla cimetteria e l'ha chiamato a Bombolo, Pirucetta e Arturo non l'ha ripresa, allora stavo chiamando io, ma evidentemente non sente nemmeno a me. Attento a Bombolo, se senti ancora. Spero se lo posso ascoltare. Attenzione, Pirucetta, mi ascolti? Ha una soframodulazione già e forse non si ha sentito. Pirucetta! Attento, Pirucetta! Ma sto uscendo, a momenti arriva, a momenti no. È una zona, magari che non è favorevole per quanto la zona lì, capito? Comunque io in quella zona lì arrivo anche a Pepoa, che cosa, anche a Bonorra me l'ho sentito, però dipende sempre anche dal terreno. No, è arrivato un momento, è arrivato per scomparso, ma deve essere già la cimetteria, dovrebbe essere già arrivata la cimetteria. Più di certo, a pensare in quella zona arrivo benissimo io, evidentemente, o ha chiuso, non lo so, poi va a chiamarlo. Però lo sento, fino a un certo, sì, sì. Già c'è, fino c'è. E ti stanno chiamando, mica ti stanno chiamando, rispondi, varò. Ma chi a me la grande di qua? Non sente né uno né l'altro. Più un po'. Sì, vabbè. Sì, io se non fossi qua, anzi già dovrebbe arrivare più di me, perché io se non fossi, già ne più in alto. Sì, ma è lì sotto le gallerie. Non è che. Non è molto favorevole quella zona dove siete voi, capito? Comunque buonasera a te due, dai, vi sto ascoltando. Pino, quanto ne sia Dio Maria Gianni? È strano perché io sino a Proaghe tranquillamente ci arrivo bene. Sino a Proaghe e poi a volte anche a Bonorva sono arrivato con Gigi. Sì, ma sta piovendo un bel, capito? C'è un bel traffico, è un casino. Certo che tu dal cucuzzolo è un'altra cosa, quindi. Ombra di pioggia sta facendo merda, sta piovendo forte qua in montagna. Non mi sa più nulla, era addormentato sino adesso. E non mi sa accorto di nulla, una brida, mi sono contrumito con una brida. Quando mi stanco io, perché ho preso un impegno. capito. Che cosa ci aveva qua? Ferma la moto? Io un paio di anni fermo era, non saliva lo smitter, non dava fatto, era tutto inchiodato, aveva avuto tutta la parte dei trimmer che servono per farla uscire, li ho dovuti tutti smontare, pulire, ripiazzare. Non gli veniva ancora, da quando ho mai sentito tu, quindi non mi sono neanche fuori piatto. Vabbè. No, io la verità avevo bisogno di posare. In questi giorni stiamo lavorando come negri, siamo tutti un bastardo. Poca gente e il lavoro aumentato, come tu sai, è una tariffa così, e quindi hai voluto sapere un caso. Lo so, ma anche io tanti non ho lavorato, ma poi mi sono trattenuto così, ho fatto un girettino, ho fatto una passeggiatina così per i fatti miei, e niente, poi me ne sono entrato, sono passato la volta, e poi me ne sono entrato a casa, mezzo giorno e mezzo ero già a casa, e poi è iniziato a piovere, quindi siamo qua. Avanti, Giammarì. Sono scelto fuori un canale, era 85 perché era 75. È spostato 10 kg, sicuramente è spostato un posto di 10 kg. E che qualcuno vuole entrare avanti? No. Allora hai lavorato anche stamattina qua? Io, stamattina ho reperibile, cioè stamattina ho di turno, controllo, poi dalle 2 alle 18. Alle 14, alle 18 reperibilità, no, sono già le 6:20, quindi tutto a posto, non ci sono problemi, noi siamo così, noi lavoriamo anche i giorni di festa. Beh, certi lavori è così purtroppo, bisogna andare, è uno che ce l'ha, ce lo deve tenere conto, Sì. Siamo 20 anni che già la posso. A Mavio, va. Certo è che potevo andare in pensione molto prima, invece, con questa nuova legge c'è un bel casino. Hai sentito? Certo, a 42 anni di contribuzione, ma come fa uno se non c'è lavoro? Non c'è lavoro, come fa arrivare a 42 anni? Non lo so io, boh. 42 anni di carriera che ti doppiano. Ehi, bomboli, tu già sei giovane. Già sei giovane, sicuramente già te la danno a te la pensione, lo problema è a noi. Lo problema è a noi, mi pare, non te ne tocca a pensione. Ah, cosa, non si sa mai così me la danno a pensione, che andrà a salo anziano, immaginiamoci. Oi, se continuiamo con chi si va a pagarle, e non che andremo male a vero. Bisogna vedere cosa ne salta fuori tu. Bisogna vedere, purtroppo è un bel casino. È un bel casino. Casino sì. Allora, cioè, prima eravamo così. Avevamo questa massa di delinquenti, siamo proprio terra. Ma sono qua convocato tutti i sindacati, avete chi si vendi e fate esempio, non mantessi cose, non mantani fatto sempre. Sono più vigliacchi dei vigliacchi, so. E per entrare là, ma con quelli che sono un pochettino, sto chiacchierando ogni tanto. Ti riprendo dopo, dai, buon proseguimento. Via. E se ne accatti. che erano lui, venduti, per carità, prima facevamo l'accisi, praticamente il sindacalista ha fatto parte inversa, si ha ricomparato due edi e adesso gli fa ottenere le cose che vogliono loro, capito? Non fa più il sindacalista ma fa lo ruffiano. Non so che funziona così, non lo so, no. CGL e CGL Wind per me hanno chiuso, noi ci abbiamo sindacato il nostro autonomo regionale, la CISL, no, non mi sposto lì, anche perché senza quello non c'è nessuna tutela, ci hanno già venduto una volta questi cazzo di sindacati, allora basta così, si arrangiano. Pare che sono curati per dire la Romesi Banuta, mi sembra che non fanno proprio un capo e si beccano i sciuti senza fare niente. E cosa devono fare? Quindi se non c'hanno mandato, se non c'hanno carte, è un bel casino. Igra, ma quando tu gli dici bisogna fare qualcosa, non sono tempi adesso, bisogna andarci piano, non si può fare la lotta, bisogna fare solo, bisogna essere accordati con i principali, perché temono quasi, capito? E temono sì, temono di perdere la poltrona, non già riuscì, temono proprio di perdere la poltrona. Diversamente cosa fanno? È un bel casino. Ah, già sto uscendo, sì, cazzo, non volevo muoversi. Diversamente è un bel casino, se non mantengono il posto, poi come fanno a campare? Però se non mettiamo a sua coscienza a pensare anche. Se per dire non va bene una cosa, allora sono lì per quello. Invece non soffre di nulla, chi dice che ci sono cose più urgenti, che rischiamo anche con il sindacato principale, eccetera, eccetera. Cercano sempre di ponderare, capito? Lasciare fare, se non fanno peggio poi un bel casino, no, tanto non si buffa diversamente, tutto così è buffo. Bisogna lasciarli fare e basta, sennò poi è ancora peggio. Tu sarai l'altra, che vuole fare? E 40. Fatto, vuole venire a riflessionare, vuole venire un coso, la, come si chiama questo bancomat? Questo coso può andare a tirarsi la pensione. Ma un pensionato di 90 anni, di 80 anni, cosa vuoi che ne capisca di quelle, di queste cose? Voglio introdurre questa cosa qua, che devi andare a prendere col banco, ma per la pensione. E lui ci viene a lavorare prima, capito? Ma stanno provando al banco, ma ti si affianca qualche zingaro e viene a biglia prima la pensione. Allora, poi fa chissà cosa, la manovra ha fatto, la manovra, mamma mia, la semma PC, cioè, ma come fa un pensionato, cioè, a capire di quelle cose? Magari quello che ha già 60 anni, 70 anni, un pochettino costruito, ma qui sono pensionati che non sanno neanche la capacità come sta. Cioè, poi non vogliono, mi sembra, preservare, qua ci sono un sacco di leggi del cazzo. Cioè, ma dove stiamo vivendo? Che sta guastando tutto, sta guastando, che c'è delinquente. E ancora nulla, questo è solo l'inizio, capito? Questo è solo l'inizio, dopodiché ne vedremo ancora delle belle. Animali, i bubuni. colori la metteranno in secondo ordine, adesso l'ha un po' eliminata, adesso nella seconda mandata metterà anche la tassa sugli animali, su chi ha gli animali, su chi ha macchine, più di una macchina in casa, tutte queste cose qua, vedrai, che ci faranno a beffa. Purtroppo non puoi, ribellarti, perché se, il governo ha fatto questo, la colpa è soltanto di chi è lì. Noi cosa vogliamo fare? Ribellarci. Ti ribelli, non paghi. Ecco, Italia inizia a metterti tutte le cose che ti deve mettere. Allora voi non paghi, ecco Italia, e ti fa il pignoramento, grazie a te ne pigliano il gas. E cosa vuoi fare? Un mio amico li hanno sequestrato una SLK al fine del mondo, me l'ha portato via il mese scorso al garage in via Pascoli. Infatti sto ponendo tutto, sto mettendo gli scaffali eccetera, l'ho portato via il mese scorso, gliel'hanno portata via il mese scorso, perché prima gli hanno fatto il fermo giudiziario e quindi non poteva prenderla, capito? E l'ho fatto mettere lì, non poteva toccarla, e poi gli è arrivato il pignoramento esecutivo, si tirano in buttata, l'hanno messa all'asta, non so se l'hanno venduta, capito? Perché si era ribellato, era un piccolo imprenditore, l'impresa non è che stava guadagnando tutto quello che si poteva guadagnare, ha deciso di non pagare le tasse e di portare solo il dipendente a casa. Un anno, due anni, tre anni, un terzo anno l'hanno trovato, l'hanno fatto un casino di Gesù Cristo, ne hanno esecutato la macchina, gli hanno fatto il pignoramento, come si chiama, l'ingiunzione di pagamento di tutte le rate con l'ipoteca della casa di primo grado, quindi deve pagare per forza le rate, è stata perso la macchina. Hai visto, non abbiamo lasciato bene, anche i baggi venire giù, non si sa niente che ne si è sequestrato loro. Però per principio queste cose sequestrate non le prenderei mai, perché sono tutte cose prese a persone, a poveracci che magari non hanno avuto la fortuna di cose, di riuscire a pagare un debito, una cosa, e di bisticheggiare da saltare un altro. Cose, sembrano cose blasfemate, dimmi, magari ti posi in macchina di frattempo. Che bucarotto, dove va a dire subito? Tanto lo sapeva che prima o poi la facevano. Dove abbia invitato tu canto un figliolo, una moglie, cioè, intestare tutto a un'altra persona e mettere lì dietro. Non c'è tempo da perdere, cammino, quando ci sono quelle cose. Altrimenti ti ne pigliano tutto, sei fregato. Invece bisogna agire subito. Prima devi farlo un po' prima che ti arrivi l'esecuzione, non lo puoi fare al momento in cui ti hanno notificato l'esecuzione, non lo puoi fare più, devi farlo prima che ti notificano qualcosa. Lui pensava che non lo trovava, non era lasciato tutti usci, e adesso io la macchina, ma essere capo della Mercedes nuova. Più gli hanno fatto le l'ingiunzione di pagamento e deve pagare a rate, non so quanto deve pagare al mese, e più gli hanno fatto l'ipoteca di primo grado come garanzia sulla casa, c'è una bellissima casa a Montebianchino, capito? Nel caso non paghi e non finisca di mettersi a posto in regola, siccome loro hanno l'ipoteca di primo grado, ne prendono anche la casa. Per il momento gli hanno messo solo l'ipoteca, al momento in cui lui ha finito di pagare, le tolgono l'ipoteca, se non paga ne ripigliano il burro a gas. Perché doveva essere fatto prima, tanto ci salmi, si sa che ti rabbono nel biglietto, perché è così, c'è poco da fare. Io per esempio, cioè, per come ragiono io l'avrei già fatto, ma da un bel muro. Avete usato Libi, no? Gaia via. Vedi la premessa nel biglietto, grande e lunga. Perché sono attimi, bisogna ragionare con la testa. Tanto lo sai, bene ne fai forza. No, è anche vero che questa gente qua che non paga le tasse ci ha messo anche in questa condizione. Non pagano le tasse loro, noi che siamo dipendenti, non rifugi nuda che ho la busta paga ti fa tutte delle invasi di questi imprenditori che non pagano le tasse, ci hanno messo dalla fine in questa condizione qua. Quindi da una parte mi dà fastidio, ma dall'altra mi fa anche pena, perché sono persone sempre, essere trattate così è un da fastidio, perché la famiglia è qui. Lo so già, lo so, ma infatti è così, io non andrei contro questa cosa. C'è molta gente invece che ne approfitta, io una volta sono andato così, ma per curiosità ho partecipato a una stagione giudiziaria, lì a Predania, ragazzi, viene poco sciacalli, ma sciacalli, per carità, carrozzieri, meccanici, un paio di macchine sequestrate a 2 lire, cazzo, poi ci riprendono, ma addirittura anche concessionarie, gente di concessionaria che compravano le macchine a 2 lire, capito, perché c'erano i bassi da paura, e poi te lo vendevano il doppio, il triplo, veramente a cazzo degli sciacalli, gente comprando attrezzature da lavoro, impresari comprando attrezzature da lavoro, ponteggi, fotocopiatrici, computer, cazzo, scrivanie, uffici interi, scaffalature, cazzo, non lo so, penso che è un po' varaccio, perché non ho potuto parlare e tu stai aspettando il momento opportuno, cazzo, per andare a colpire, cazzo, ma per carità. Ma infatti io sono il primo che queste cose qui non le prenderei mai. Arte giudiziale, proprio non mi interessa, manco ci vado, perché anche un amico se l'ha comprato una macchina, una Golf, cazzo, nuova, sequestrata, turbo diesel, 1900, turbo diesel, dice, l'ho pagata una cazzata, però già me la voglio riprendere, perché sono sempre qualcosa che mi ha frastimato, un padrone. Se magari mi prende di strada, mandare a frate, magari mi si dica che cosa, e vabbè, io non lo farei dal principio, perché sono tutte persone poveracce, nel senso che se uno perde lavoro, che cosa, non ce la fa pagare certe cose, negli bigliani tutti, magari c'è un mutuo, una cosa da pagare, non ce la fa pagare negli bigliani la casa, aiuta. La casa è un bene di prima necessità, nel senso che se uno non c'ha la casa, dove va a vivere? In mezzo alla strada. Non ne frega niente allora già, hai capito, non ne frega niente. Tu allora devi avere i quattrini. È come la banca. La banca fa lo stesso ragionamento. Al momento in cui tu hai i quattrini, allora va benissimo. Dal momento in cui ti vedono bloccare, ti affossano ancora di più, capito? Ti annegano nella merda. Non è che dicono, ma non si preoccupi, le serve qualcosa, le veniamo incontro, vediamo, non so, un filo giusto per riprendersi. Nulla. Ti mettono il cappio al collo, cazzo, e ti ammazzano. Capito? Nonostante sei stato per loro, per dire, un cliente per anni, che hai versato un sacco di quattrini, che non hai mai rotto le balle, eccetera. Al momento in cui che va bene, va bene. Quando vedono che stai zoppicando, ti mettono la pietra al collo e ti annegano. Non gli ti danno una mano, così fanno gli altri, tutti in atti. Lo so. E poi non è che vendono la cosa per il valore che ha, loro recuperano solo il credito che tu le devi, li devi dare a partire più euro. Poi si prendono una macchina, la prendono, dicono, più euro la danno, capito? Non è che guardano il valore, niente, non è una fittinuta. Hanno un prezzo forfettario, stato per recuperare il credito che gli devi dare. Gaiette, ma visto a un nome, cazzo. Si è sparato, il fratello è un mio collega, è un ufficio e il figlio è un nostro dipendente lo stesso. E gli si faccio preoccupazioni, cosa so? Sono tutte cose inerenti al mondo del lavoro, capito? Perché era una persona stupenda e purtroppo quando l'azienda va male, le banche non ti aiutano. I creditori ti stanno addosso, ti ammattano e non ti danno il tempo di respirare, di cercare di riprenderti e darti una mano alla fine, uno scocca, prende la pistola e si ammatta. Perché se non trova sbocchi, cioè cerca sempre di risolvere il problema nel migliore dei mondi, ma se si chiudono la porta cosa fai? Alla fine se ne va con niente, magari uno che non ha mai avuto problemi, paga vitti di coso, il corpo si trova così, ne ha la faccia in terra, capito? Perde proprio la faccia. Ma te da perso la faccia, Bruce, anticipare la faccia. Per carità di Dio. Oi, oi, oi. Avanti, Anto. Giappa. Vabbè, non era il caso di agire così. Quando è così, prendere... Quando non c'è un cazzo da fare, prendere quello che c'è, c'è quello che non c'è. Via, sarà tutto. È mandato di Noramara. Tanto... No, non ne valeva la pena di fare così. Io lo so che ogni persona non la pensa diversamente, però non ne vale la pena per quattro disgraziati che ti mettono in croce di agire così, dai. Lo so, Anto, lo so. Sicuramente l'avrei visto un sacco di volte, quello c'ha l'azienda, la Glass Point in Viale Dante, capito? In Viale Dante, poi aveva la concessionaria di macchine, in Via Duca di Abruzzo, dove c'è la banca nazionale del lavoro. Questa è la posta in Viale Dante, Glass Point è lì, Viale Dante, via Angolo Piaggio di Astroni, è lì. Vabbè, non si sa, molte volte non si sa come agisce una persona, magari anche per la vergogna arriva a fare queste cose, purtroppo è così. Vergogna ti porta, allora cosa ti porta, poveretto, alla vergogna proprio, perché quando non hai sbocchi, non hai alternative, le persone o gli amici che tu hai aiutato per tantissimo tempo, che hai sempre dato una mano, perché sono convintissimo che lui l'ha sempre fatto, perché era una persona veramente in gamba, ti chiudono la porta e alla fine non hai sbocchi e dici ma cosa devi fare, cosa mi volte non vedo, basta quello ti figuri per farmi un migliore dalla gente, ma mi tolgo la vita così non soffro più e si abbiglia in culo, il problema è che soffrono gli altri, capito? Che soffrono gli altri, perché ha lasciato un vuoto allucinante, capito? La famiglia e tutto il resto. È un casino. Avanti già. Quando uno è portato a fare certi atti è tutto perché è disperato. Non è possibile che uno non faccia così per gusto. Lo fa tutto senza pensare a tutto il resto che c'è dietro. Solitamente quello che ti blocca sono i figli, la famiglia, a fare questi atti così. Però quando uno è disperato, portato proprio alla disperazione, non comprende manco che si fa. Vado per venire da tutte le parti, che bussa una parte, bussa all'altra, utilizza la Vinaiana, e ci è finita per me, e cosa faccio? Non posso andare avanti col lavoro, non posso sfamare i miei figli, non posso fare nulla. L'unica cosa è me, o fuggi oppure è l'altra cosa, è amata. Ma anche quando scappi, alla fine scappare non serve a niente. Non serve a niente, i problemi si affrontano perché io sono convintissimo che di persone che non hanno problemi ce ne sono poche. Si vive, si arranca, come si dice a Sassaremo, sempre arrancendi. Perché con gli stipendi che prendevamo prima, parlo da dipendente, a quello di adesso devi solo arrancare. Non puoi fare molti tramiti, a meno che non ti fai il culo veramente lavorando e che lavori 13-14 ore al giorno, allora qualche soddisfazione te la togli. Ma se fai 6 ore, 8 ore, se hai uno stipendio di 1200 euro, chi ci ammutano non credo che ce la possa mai fare, capito? Si deve privare di un sacco di cose. Chi invece ha un'azienda e ha un giro di lavoro molto molto grosso, allora diciamo che può andare avanti pian pianino, senza fare molte cose viziose, no? Capito? Però deve avere un bel giro di lavoro. attenzione, io faccio tutti i lavori e mi gestisco tutta quella parte lì. Tu ti gestisci le acque bianche, ti fai tutti i lavori delle acque bianche, tutta la manutenzione delle acque bianche, eccetera, delle condotte. A un certo punto, se la regione mette a disposizione 75 milioni di euro e tutti i miei 50 milioni di euro, e a me me ne do 25 milioni di euro, a me mi stai mettendo in ponte. Perché alla fine io cosa devo fare? Con quei 25 milioni di euro cazzo devo pagare gli stipendi di 400 persone. Ok, farmi tutta la contabilità di tutti i lavori che sono stati fatti, quindi autospurghi, manutenzioni varie, cose varie. E alla fine non manda nulla. È così che si inizia a doppiare. Quella che ha 250 milioni di euro di debiti. La multinazionale che sa perché debiti non ne ha, però non sta incassando dalla regione, perché la regione sta solo anticipando quattrini alla casa madre per tappare i buchi. E siamo zoppicchendi. Cioè si sta zoppicando, e sta zoppicando una multinazionale con 35.000 dipendenti. Quindi due società della regione che stanno zoppicando. Immaginatevi voi, se il privato non zoppica in questo momento, ma cazzo si zoppica. E poi tutta una catena, tutta una catena, zoppica uno, zoppica l'altro, e l'altro trasferisce l'altro ancora, tutta la catena. Perché per dire, se si blocca l'edilizia, si bloccano tante attività come l'idraulica, i pavimentisti, eccetera, eccetera. Ciao Gianfra, è come c'è un amico mio che un giorno fa bisogna e cieco, no? Era giusto tutti dai punti di vista, senza volerlo. E domani tu lo vengo tutto unito, da poi non lo so che tu come ti vedi. Cosa vende Gianpaolo? Niente a coppola già la Sari, che mi ha sbagliato a quel tuo amico che conosce che tu è un nostro dipendente. Ha sbagliato tutti i cosi, cazzo, delle relazioni. Lo tomi in copia di tutte queste qui e così io poi me li metto nella contabilità del registro di carico e scarico. Cazzo, avvenendo tutto sbagliato. Sento cazzo, ma mi dice il cieco, ma non lo vedi? Vabbè. E c'è uno che viene letto, voglio lì, no? L'ho letto così, cazzo c'era Gabriele, mio collega, mi tocca, cazzo, ho detto Gabriele, mi sono dimenticato, mi dà il culo, cosa? Cazzo c'è uno che viene letto, io ho letto così, cazzo non lo vedi, giri così, cazzo, tutto lì che mi hai sbagliato, cazzo, ma come non mi hai detto nulla? No, aspetta, te lo ricopio, no, lascia, già me lo ricopio io, cazzo. Se non siete buoni anche il copione, gli dico, cazzo, voglio di tutti i giri, bella. Come se a uno era caricando di spesa una russa, e senza volerlo, io ho detto, se vuole le do una mano, cazzo, lo figli della senza l'ubraccia. Buonasera, professore, se c'è Gianpaolo e c'è Sandro, c'è anche Antonio Bombolo, avanti Antonio, vai per Sandro e per Gianpaolo. Gianpaolo Silvestro, anche Sandro. Buonasera. Ok. Ciao Bombolo, buonasera. Non ti ascolto più sotto fondo. Ciao Gianni, ciao Claudio, buonasera Silvestro. Più che niente. Buonasera Sandro e buonasera anche a Silvestro, vai. Sì, insomma, sono un po' di radio. E dopo già va bene tutto ciò, Sandro, anche a te buonasera. Non c'è problema. E guarda, anzi adesso ha un po' calmato qua a Sassari, ma poco fa c'era una bella passata di acqua. E tra l'altro mi pare che era ambulanza della rotonda, si doveva scendere, mi dava la fiducia, ho frenato in retardo, perché ha fatto un'altra all'ultimo intorno, quanto quella grande che c'è prima di scendere verso di te. Ha inteso un fuoco, poi si diceva che era l'ambulanza, ha detto ma che credo non si è arroccato, non ho visto vicino al fuoco, quindi sicuramente non c'era necessità, ma l'imbardinata a capo la pigliata, perché scendono a 1000 capo, poi vanno a frenare di colpo, fatti la macchina e sicuri non ci mette in mezzo della rotonda, capito? E vabbè, ok, avanti Gianni. Quella rotonda è un po' pericolosa, però molti incidenti sono successi, molti incidenti, tra l'altro quei ragazzi di Usi che mi pare sono fatti un bel male. È sbagliata perché è troppo alta, capito? È troppo alta come muretta. Quelle che ci sono, le rotonde vanno fatte basse in modo che se sbagli sali sopra e non ti fai male. I chili è tutta fatta in cordolo di cemento in mado, manco si posa ad un metro. Non venne mattone in chili, no? Avanti Sandro. Sì, ma se poi fanno le rotatorie con i momenti bassi, i meccanici e i carrozzieri non lavorano. A Pallotone se ci apriamo qualche rotatoia dove c'è il ferro pure che spunta fuori. Gioppa, però dico anche una cosa. Ma quando era a 50 e a 60 non succede quello. Siccome c'è sempre il cretino che gli piace stare sempre col piede sopra l'acceleratore, allora quelle cose succedono, hai capito? Beh, anche se il passo in un modo o nell'altro, se il passo qui dall'invito, se stai camminando, se ti fa alzare la macchina di lato, ti fai caputtare. E quando cammini è così. Vabbè, aspettate un secondo, mi sembra che abbia salutato qualcuno. Chi mi ha salutato? Avanti. Mi sembra di sentire qualcuno, c'è una sparita di lontananza. Non ho capito chi era. Vabbè, però, cioè, sono d'accordo con Antonio, ci basta andare piano. Ma Antonio, vedi, salendo, c'è la gara delle moto. Quando il tempo è bello c'è la gara delle moto via Milano. Scendendo, le macchine parano a 1000, nonostante ci sia il rilevatore di velocità. Perché c'è sia salendo che scendendo, non ne frega niente a nessuno, capito? Passano a 1000. Poi quando arrivano in fondo, frena il colpo, batteneggia la macchina, e finisce la macchina e si cura nella rotonda. Perché già quella rotonda è sbagliata, perché c'è un doppio ingresso e una doppia uscita da Pio Augura Malfa, mentre invece potevano allargarsi un pochino e farla diversa, quindi l'errore c'è, non c'è ombra di dubbio, però certo già vedi che c'è l'errore, già vedi che è pericoloso, certo di buono a camminare a 1000, invece se vai piano, se vai a 50, perché quella lì si va a 50, e ci sono le strisce pedonali, quindi c'è l'attraversamento, devi andare a 50 e non ti succede niente, quindi quando mi raggiungi sono problemi due. Dopo quando vieni niente già te lo ricordano loro qua quanto devi camminare, mi ha blocchetto, dammi la patente, dammi. E te, è uno che ti lamenta niente quel cazzo devi camminare in chili. E come quello di Ottava. Quello di Ottava ha risultato negativo in tutto, gli hanno solo contestato 20 km in più del limite velocità, perché lui lì è passato a 70, mentre invece deve passare a 50, capito? A prescindere dal fatto che non l'ha neanche vista quella ragazza, però doveva passare a 50 e cosa se la vede brutta adesso? Perché per la legge se è oltre il limite è consentito e quindi c'è un morto, allora bisogna vedere cosa ne ci vuole. Comunque il risultato negativo alla coppia, il risultato negativo a avanti, senti. Vuole sapere cosa deve fare, capito? In modo che lui c'ha la scatola sua, se riesco a scendere al produttore a prenderla, lo si molla e si manda indietro, perché questo difetto bisogna sistemarlo, capito? Bisogna sistemarlo, è una cazzata. Carlo mi ha telefonato anche stamattina, dice che no, lui no, non vede niente, no, non trova niente, la radio è a posto, manca questo audio, ogni tanto manca l'audio e poi si rimette a posto, manca l'audio e si rimette a posto, quindi bisogna vedere che cosa c'è, siccome lui è tecnico e quindi è meglio che la veda lui, e anche perché la radio è in garanzia e quindi è meglio che la veda lui. Cosa ti ha detto Franco? Io avviso Carlo, posso prenderla e dici manda Giampa, ma non perché siamo degli imbecilli, perché se per lei non gliela vogliamo andare non abbiamo problemi, la volta va bene da Carlo, ma è questione di principio, capito? Siccome la radio è in garanzia e te l'ha venduta lui, allora lui deve rispondere a quello che ha. Se è stato riscontrato questo problema dall'inizio, poi tu purtroppo non hai potuto fare diversamente, perché se invece scendevo io il giorno che dovevo scendere, allora la cosa era diversa, capito? Però siccome tu non potevi farlo perché poi sei stato male eccetera, glielo dici e vediamo cosa ci dice, non è un problema. Se lui risponde va bene, se non risponde la radio già si mette a posto lo stesso, noi chi c'è un problema. È più chiara, l'altra rimane molto cupa, è chiara lo stesso. secondo che microfono è, Alessà? L'MV più 5. No. Negativo, questo è il Turner, però ho dovuto fare qualche piccolo accorgimento. Ma Turner più 3? Sì, il Turner, quello Turner plus Car, quello grigio. Ho capito. Che non è che pompa molto come il tarno, o è se va su più come il radio, prova a aumentare a vedere, va, perché abituato a sentire quello di Claudio che pompa un bel con l'HB23, questo qui non lo sento molto chiaro, però non è forte abbastanza, forte nel senso che il tarno più 3 dà di più, ecco. Ho capito, ma bisogna... Lo vedi? Entra dentro. Lo vedi? È troppo... Se apro di più... Buono. Adesso sono quasi un e mezzo di microfono, Sono quasi un e mezzo, considera che già lui c'ha la scheda dentro, quindi di più non fa. Sandro, ritira tutto ciò che ho detto perché va bene, era il volume che voleva solo regolare, tutto lì. Ritira tutto perché va bene, no, va bene. Ma che cosa l'hai abbinato con l'apparecchio nuovo? Come si chiama? Col veicolare, capito? Il veicolare, quello con GK4, sai che dalla sua parte destra c'ha il GK4. Secondo me per aumentare il volume dovresti abbassare appena appena la potenza power, che è quello che ti fa innescare, io ho già appurato dal mio. Ma di potenza sono a 5 watt. Sono a 5 watt. Guarda, se vuoi abbasso ancora di più. Guarda, così sono a 4 watt. E va benissimo. Se prova a vedere se ti innesca aumentandolo come lo aumentavi prima. Ok. Allora. No, innescare non innesca. Innescare non innesca. Allora aspetta un po', c'è qualcosa, aspetta. Ok, meglio così. Non innesca più, da quello che ho detto di abbassare la potenza non innesca più. Avanti Grode, che ti ho sentito parlare, avanti. Dai, riprendi. Ha sbagliato il microfono. ehi. Vabbè. No, comunque lascialo così, Sandro, come di prima poco fa. Lo lasci su quel livello lì microfonico e andava molto bene. Non ci sono problemi. Dove si è andata a finire? Allora, aspetta un attimino. Ho sentato qualche rumore. strade di sottofondo sono porta dietro. Mi confermate? Non ha ventola, mi sembra, ma è roba da poco, là. Non ha ventolina. La ventolina sua, dai. Infatti adesso si è attaccata. Sì. Ecco. Tanti. Fa ben sentiti, ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Sandro. E se non sbaglio c'era anche Antonio Bombolo da questa parte, Antonio Grotte. Un piccolo problema microfonico per quello che non sono entrato fino adesso, perché sto andando a risolverlo, nel senso che mi devo comprare una batteria nuova per questo di Proxel, che ha un po' di problemi. E non è aperto lì la cisa sotto? Dovrebbe essere, infatti adesso scendo qua giù. Se no, tieni sempre un microfono in riserva, esci con un altro microfono e via. Io faccio così. Se mi si scarica, vabbè, c'è sempre la batteria di riserva, sempre. Perché il Proxel, se trovi quello difettoso, ti dura la notte a Santo Stefano. Già, no, ma infatti vanno, iniziano ad andare da, come scende la batteria da 9, già a 8 e mezzo ti sta creando problemi, basta mezzo volte e ti crea problemi. Ma il Proxel, guarda, c'ha la spia quando sta consumandosi la batteria, fa un rumore, sembra che, ti dico tutti che sta facendo con un rumore, quello lì è la batteria, non disperare perché io ormai lo conosco a fatti fritti. Soprattutto poi inizia a scrocchiare, senti, lo senti questo rumore qua, cosa che quando c'è la batteria che è carica non fa. Non sarà, con lui potrebbe essere anche PTT che ha bisogno di un po' di stopper contatti, c'è lo status del PTT. Però anche quello, infatti dopo lo apro cambiando la batteria, però l'ho misurata l'altezza e la batteria ormai è a 7,5, stiamo parlando quasi di quasi due volte in meno. No, ma non è la batteria, perché ti avrebbe fatto quel rumore, attenzione, perché quando la batteria fa una cosa del genere. Adesso gli do una controllata, dai, continuate, scusate, era solo per dirvi che ero in radioascolto, dai. Il mio consiglio è mettere un po' di spazio per contatti, io ci registro sempre per contatti, sul coso, se non sta un tuffo che entra e esce, là. Quello del PTT, diciamo, capito. Pagappa. Sandro, allora ce l'hai fatta a collegare questo microfono? Ehi, capo, senti. Anche il ventolame, ma adesso la ventola siete di più, vero? Un pochino, sì. Chi è che sta fischiando? Chi è? Ma Ravicola, tu sì. No, questo deve essere Chiaramonti, se non sbaglio. Ehi, già, ce l'ho fatta. Prova adesso, prova dopo, prova pure dopo, guarda, alla fine non sai cosa era, un ponticello, tutto lì. Hai dovuto fare un ponticello tra un collegamento e l'altro, e succede anche quello, bisogna destreggiarsi, invece il mio, io come lo metto, il coso va, però quello che a me dà fastidio è che non posso usare tutte le... diciamo le cose che ci sono, puoi usare con il microfono normale, con l'amplificato non le puoi usare, devi tutti escludere, abbassare la potenza, devi abbassare il mic gain, insomma, alla fine poi ti risulta un apparato normale. Vabbè, quello sì, perché poi... Ok, però troppa amplificazione, ce n'è troppa. Sono a uno, se sollevo di più si sente troppo casino e si porta dietro. Aumenta di brutto il rumore della ventola. Lo so, quello lì è. Eccola qua, si è staccato. Sul carro di vento, logicamente si attacca quando ho sul coso, sul dissipatore, capito? Ma perché non gli fa l'interruttore a quella ventolina e l'attacca più piacimento? Ci avevo pensato, però poi ho detto ai giocatori, ma non vorrei che comportasse qualcosa e magari non gli fa neanche niente. Ma infatti lo sai che cosa fai? Se tu non stai modulando, attacchi la ventola e la fa raffreddare, poi quando ti rilanciano a te, spegni e parli, così non ti si intende nulla. Sì, già, ma diventa una cosa complicata, mamma mia, dopo diventa, io non mi divento, divento un coso, divento, ma poi divento un buon divento. E vabbè, comunque, ascolta, dimmi una cosa. Considera che adesso sono con 4 watt, a parte i picchi di modulazione. Dimmi un attimino, il rapporto com'è? Se ci sono picchi positivi e com'è? Il rapporto è 9,10, 9,15 e i picchi sono fermi, dai, non sono né positivi né negativi, la lancetta è ferma qua. C'avevo ragione io da poc'anzi. Ciao Gianni Chiaramonti, ti passo Gianni doppio rombo. Dai, scusatemi un attimino, mi sento un attimo. KK, va bene, va, non corrisci allora. Ciao Gianni, mi hai sentito, vai. Ecco, bisogna che impari a regolarlo. A troppa ripetizione, se vuoi un consiglio, mettilo tra il 3 e il 4, tutti e due le rotelle e fammelo sentire. Ma non so se lo vedete già. No, come c'è anche la voce? Boh, non la vedo qua. Faccio correre a 9, non ci arrivo qua. Io ti sento già ti sento, ma per dire Claudio mi ha detto che ci accorremo a 9 e non riesce a copiarti. Io qua ti sento perché la verità correma e non ne ho, sembra strano ma non laggio. E solitamente quando c'è la pioggia c'è sempre un marco di rumorino, cosa, ma oggi non ne ho, la verità. E Gianni, ma ti ha soddisfatto quel microfono, cosa dici? Sente! Ma la radio è 4, dai. 4 e mezzo. Il segnale è basso, il segnale è 3, ma la radio è buona. E quindi quello di interesse è questo. E anche un'altra modifica da farli, modifica, oddio, c'è un trimmer sopra, quello che c'è sopra. Basta che tu lo aumenti appena girando piano piano, perché quel trimmer sono molto delicati. Lo metti al massimo e l'amplificatore aumenta di brutto. Ciao, già ci sentiamo, va. Claudio. Ehi, già, salutalo, ma io non lo sento, ma arriva qua. Troppo QRM, c'ho QRM a 9 dalle scariche retrotattiche della pioggia, io sono in alto qua e è un buffoneggia, non scherza, e quindi non lo sento. Quando lo sento, le dico che lo sento, quando non lo sento, non lo sento. Ma venuto da lui qua arriva 5-6. Però se c'ho QRM a 9 c'ho quel fruscio della pioggia, amici, capito? E quindi no, non arriva, già facevo difficoltà a ascoltare a Pinuccetto come lo fa in macchina, quindi figurati. Va bene, d'accordo. Sandro non c'è più. Ha detto sta facendo un attimo di QRX, non so cosa sta combinando, una delle sue delle sue prove KK. No, comunque questa qua delle Turner, va bene, adesso come gliel'ho fatto regolare io non fischia più, lo può regolare anche alto, quindi l'unica cosa che c'è è che si sente la ventola, e il consiglio che gli ho dato io è di mettersi un interruttorino nella ventola, attaccarla quando non sta modulando, di modo che raffredda, e poi la stacca quando modula, e così almeno non ha il problema che si sente questo, perché come altro microfono si sente un bel. Mi ha detto che è una cosa troppo onerosa stare a staccare e attaccare, però è l'unico modo per non dare, non creare rumori. Io l'ho provato io quella cosa lì, l'ho portato qua a vedere se faceva lo stesso difetto che fa lui, però è troppo rumoroso, non può attaccare nessun amplificato e se la porta dentro deve usare per forza il microfono normale. Io poi con l'MC60, figurati, si sentiva più la ventola che tutto il resto, e quindi niente, io con il microfono normale non ci so modulare, e allora niente da fare. Lo stesso, se io attacco lo shooter lo posso attaccare al mio apparato, io c'ho anche lo stesso attacco, perché sia il gas che il magnum hanno lo stesso attacco, quindi posso attaccare indifferentemente l'uno all'altro, però non l'attacco perché non l'attacco perché scusa un attimo, deve essere caduta Manuela. La mia subita durra e invece stanno facendo prendere per le caduta la scatola col muschio. Ma mi senti Gianni? Io Gianpa che ti sento, certo che ti sento, buonasera, ben rientrato. Questo è il magnum, ho attaccato il microfono, lo standard, con il compressore, guarda come senti. Vai, è normale. Aspetta, il magnum è questo, mi senti, non si crede, va. Amplificato. Se quello lì è il microfono normale, ti dico una cosa, non attaccare nessun altro microfono. No, ti ho attaccato, il microfono non ho capito. Ah, ecco, quello che volevo dirti. Sì, ho capito, gli ho messo anche il compressore. È abbassato la potenza sicuramente, perché se lo ti innesca, ed è abbassato anche il mic. Bellissima, limpida, chiara, forte, presente, recuaro, meglio rilassa. Rilassa quale? Del Eia, è molto meglio, Giappa, chiarissima, con questa qua io capisco le tue parole bene, bene, bene. Con l'altro invece la impastava un po', capito la parola, te la impastava. Sì, io non gli ho fatto questo attacco perché ha questo microfono in mano, me lo telecanto, riesco. E hai fatto bene perché hai avuto un buon risultato, mi piace. Io sto dando uno shooter, se interessa qualcuno lo sto vendendo. Aggiudicato. Ma perché quello lo posso mettere? Non c'è lo spazio, capito? Se avessi avuto lo spazio sarebbe stato già attaccato a quest'ora. Aspetta, che c'è gente, un secondo solo, riprende voi. E io, K. E già va. Molto bene. Dico la verità, ho rinunciato a attaccare altri microfoni perché a me piace usare l'apparecchio con tutte le sue cose, mi piace programmarlo come voglio io, invece con l'amplificato non lo puoi fare, devi stare a chiudere questo, a chiudere l'altro, non lo puoi usare con tutte le sue potenzialità, capito? Va bene, questo qui è il gara. Galassi, il Galassi con il microfono DM1000 amplificato un po' da trip, ma bene, così abbiamo detto che va molto bene. Sì, guarda, io io, tu e Sandro, perché Claudio è andato dimmino che c'è gente. Sandro poi era in quel Rix, aspettavo di essere entrato. Sandrici, sì. Dove è che trasciamo c'è Galassi? L'ho lasciata fuori oggi, devo scendere giù a metterla dentro. E non mi dà sicuri, Giampaolo, che ti faccio, ero un pigiama in nato, mi tocca vicino e va a punirsi la macchina. Quelli pigiamoni, di quelli che scaldano molto, di quelli, perché dico la verità, ero in pantaloncini corti, già petto nudo, però non stavo tanto bene, avevo freddo, allora te si che mi il pigiamone e mi sono subito ripreso perché avevo freddo, ho subito risolto il problema col pigiamone. E vabbè, comunque quello è un grandissimo apparecchio, non lo dare perché sono apparecchi molto belli quelli lì. Io ce l'ho qua e te l'ho fatto sentire anche l'altro giorno, il mio. Va molto molto bene. Sono apparecchi che hanno una certa serietà nella trasmissione, nella ricezione. Diciamo che vanno bene. Vanno bene, poi solo il fatto di vedertelo illuminato in quella maniera, quell'apparecchio è una favola di notte, dai. Abbassa un po' quell'eco, perché se no non si ricomprendi nulla. Tiro tra 3 e 4, appena appena, no? Non dire che sei un polemico e ti sto solo regolando la microfonia. No, a zero no. A zero no. Ma le ha aumentato il trimmer. Il trimmer è il numero, quello che c'è sopra, il 3, V3. Quello lì basta che lo gira appena appena verso destra, non hai niente da toccare, quello lì ti aumenta la modulazione. Invece l'altro è pall'ascolta, quello che c'è giù. Come la signora? Il microfono, dimmi mille. No, sì. No, già mi stanno bene, adesso lo stanno bene, già. Prima l'eco si accavallava sopra, quindi non è che si capiva molto bene. Una formica già, è una modulazione, che cosa possiamo dare che ti intenda appena appena, però ti posso dire, una formica ce l'ha presente, più piccola la formica, sì, un tirimicchio, anzi, un piruccio. Sì, io ti ascolto Marcino e Gianni, però posso dire una cosa, se quello è stato un segnale, devi già avere prima, se è stato un lavaggio, perché dovresti metterlo a parità di watt e di radio per sapere se veramente rende quell'apparecchio. Comunque ti sentiamo lo stesso, anche se in basso, cioè ti sentiamo. Qua per dire, Giampaolo, tu mi hai detto delle stazionarie, qua c'ho 1 e 1. 1 e 1 di stazionarie va benissimo. Ma la pioggia a me mi si ammassa invece che a casa come di conoscermi. che si apre, la mia si abbassa. Benissimo. giornata, Giampa. Mi ha radio. Bellissima, eh? Veramente bella. Va bene, già lo passare il fatto suo. Perché guarda, questo microfono aveva dunque, io mi ricordo che aveva preso Walter, aveva preso da fuori, vicino a Walter e un altro, mi sembra Albino, qui a Procopio. Non c'erano altri in giro, assolutamente altri, erano due, e ce n'è un altro che si giro, non si sa chi ce l'ha. A proposito, dico una cosa, com'è la potenza al massimo? Ma di questo palacino? Sì. Ma come dice Power? Ma ci sono tutti due. Così. Ma perché devi mettere quel ascolto qui? Sì, sì. Power è tutta maneta. Ma che faccio esce? Che watt ti staranno? No, è quasi 7, ma l'altro giorno mi arrivavi 9, non mi ricordo con che apparecchio, ma mi arrivavi 9. E con quanti watt ti sta uscendo? E quello lì è cosa. Poi manda laterale, boh, così te direi c'è parecchio. Prova a andare a mandare laterale con quel microfono, vedere se si sente bene. Non so se va bene. USB vai. telefonato. Il Maitichico. Uffu. E a passa, vabbè, già mi capito, lo squelcio. Anche io il coso, la mascherina con la bandiera americana. A tutti lo dà. Cosa ti sto dicendo? Ma la chi del comparto, la tecnocomunicazione? Che vanno bene quegli apparecchi. E che non le ditta a me, ce l'avevo venduto io. E vai, gioca bufuente. Non lo so. Questo è un signor apparecchio. Da qui non esce. Oh, palazzi, se ne trovo uno migliore che anche lo dia. Allora, cioè, se dentro uno migliore magari si può anche là. Per me è uno che vale molto. Però ne vogliono troppo, ne vogliono 900 euro, ma ve la fai. Dica. La voce non è più, diciamo che la è più squillante. È più squillante quell'altra. Con la verità, mi piace più l'altra, comunque non è male manco questa, eh. Aspetta che devo abbassarmi, che sto, vabbè, aiuto, spiegato, non riesci a capirlo, fai. Guarda, mi sono messo gli occhiali proprio per andare a segnare. Adesso ti spiego, il piano dove è superiore a quello dove c'ho l'apparecchio, c'ho l'estraibile con il computer e ce l'avevo fuori. Quindi ho dovuto rimettere dentro il computer per guardare il segnale, capito? L'ho guardato proprio perfettamente, mi sono messo gli occhiali per guardarlo, per non darti segnali approssimativi. Sto raddoppiando tutto il capo, guarda, stavo già detto, aspetta. Aspetta, pronto. Ci arrivi a 7, sei a mezzo passato ma non ci arrivi a 7. Ma conta sempre che il garage è un po' avaro, eh. Col garage sono. Sono con Zara, sì, non ho cambiato l'apparecchio. Questa è una domanda da 13 milioni, non me lo ricordo. O col Magnum, oppure te lo posso dare col Midran, dipende. Dipende da come lo vuoi. Comunque è così, dai. Lasciami che sono un attimino su, pensavo su internet che devo controllare una cosa. Comunque non ti disperare che arrivi bene, il radio si sente benissimo. dopo Giampa va. Vado. Guarda, ci ha messo la macchina dentro, va. Mamma mia, non è una gara di andare, vai, dammi su sola. Che stanno a metterci la macchina, là, se no non mi decido più. Siamo dopo. Carli. Carli. Ci sei?